una spalata la luna marchiare, furre di piscine c'è fana l'amore. Se ne vuota la lunne del mare, bene brizza con lo colore, quando spalata la luna marchiare. Amare chiare c'è sulla festa, la passione viaggia zuzzurea, e non carrava l'aurora, diretta la testa fa sarebbe avviso la mormorea. Amare chiare c'è sulla festa. Dice cari stelle solo certe, lo sappi tu che caro tiene in frota. Sti doge stelle risaccio sulla marta, ritalo correrete con ripote. E ci dice cari stelle solo certe, c'erane caro di calore a roce, quando mai tanto tempo ci ho sperato. E fa comparare suona, con la voce stasera la chitarra c'ho portato, e fate coro di calore a luce.